Felice chi è marito di una moglie buona, sarà doppio il numero dei suoi giorni. Una donna virile è la gioia del marito, riempie i suoi anni di pace. Una buona moglie è una vera fortuna che tocca a chi teme il Signore. Egli, ricco o povero che sia, sarà felice, avrà sempre la faccia contenta. Di tre cose ha paura il mio cuore, e nella quarta temo di imbattermi: calunnia nella città, raduno di folla, accusa falsa, cose più dure della morte. Ma il dolore di lutto, la donna gelosa di un'altra, la sferza della sua lingua colpisce tutti. La moglie cattiva è un giogo che sfrega il collo. Chi la possiede è come chi afferra uno scorpione. La donna ubriaca provoca sdegno, non può celare la sua degradazione. La donna sensuale ha gli occhi sfacciati, la si riconosce dalle palpebre. Vigila severo sulla figlia testarda, se trova debolezza ne approfitta. Bada alla donna dall'occhio impudente, nessuna meraviglia se sbaglia con te. Come viandante assetato, essa apre la bocca per bere ad ogni fonte che si trova vicino. Si siede davanti ad ogni palo ed apre la faretra davanti alla freccia. La grazia della donna rallegra il marito. Il suo senno gli rimpolpa le ossa. È dono del Signore la donna silenziosa. Non c'è prezzo per un carattere disciplinato. La donna pudica ha bellezza su bellezza. Non c'è peso per la donna continente. Come sole che sorge nel cielo del Signore, la bellezza di una buona moglie adorna la casa. Lucerna che brilla sul sacro candelabro è un bel volto su solido corpo. Colonne d'oro su base d'argento sono le belle gambe sui talloni armoniosi. Per due cose il mio cuore si rattrista, per una terza mi viene l'ira. Un soldato che langue in miseria, uomini saggi che sono disprezzati, chi dalla giustizia passa al peccato, il Signore lo prepara per la spada. È difficile che il mercante sia esente da colpa, il bottegaio non sarà indenne dal peccato.